già dal 2003. Direi si parlava ampiamente di Blu-ray Disc HD-DVD. Va detto, va chiarito, perché forse non tutti lo sanno, che HD-DVD non è un formato di Toshiba o diciamo solo di Toshiba, è il formato ad alta definizione approvato dal DVD Forum, che è l'organismo che ha standardizzato il DVD e che prevede al proprio interno una rappresentanza di tutte le maggiori aziende, quindi anche Sony, Panasonic, Philips, Pioneer, eccetera, eccetera, tutte quelle che poi invece si sono schierate alla parte Blu-ray. Blu-ray è nato come un formato invece esterno al DVD Forum, dissidente da questo punto di vista, però diciamo, ha guadagnato l'adesione di tutte le principali case produttrici, e Toshiba si è provata da sola, cosa che l'ha trasformato un po' nell'immaginario collettivo nel formato di Toshiba. Quindi la decisione di Toshiba è una decisione semplicemente di un'azienda aderente al DVD Forum di non supportare più HD-DVD, ma siccome era l'unica e l'ultima casa hardware che supportava questo formato, decreta definitivamente la morte di questo formato. Quindi possiamo dire che c'è una discontinuità tecnologica, perché se HD-DVD era comunque nato all'interno dell'ambiente che aveva sviluppato il DVD, con Blu-ray cambia un po' la strada, o voglio dire, il fatto che si parli di alta definizione, già quella è una discontinuità tecnologica? Ma sicuramente è una cosa nuova, però il DVD è giudicato da tutti un esempio virtuoso, perché è arrivato uno standard solo supportato da tutta l'industria e proprio sotto l'egida del DVD Forum. Evidentemente questa cosa è piaciuta molto ai consumatori, e l'adesione molto rapida che i consumatori hanno fatto supportando questo standard ne è la dimostrazione. Non deve essere piaciuta proprio alle aziende, che evidentemente si sono provate forse a dividersi in troppi, una fetta comunque, cioè una torta comunque grande, ma quando poi sono tanti commensali la singola fetta magari resta piccola. E quindi è nato questo altro formato, il Blu-ray Disc, che è nato in un ambito, se vogliamo, più legato a pochi marchi, quindi tendenzialmente direi Sony, Panasonic, ecco, mettere dentro questi due nomi, e poi si è sviluppato, ha avuto le adesioni anche di altri marchi, ma nasce in un ambito meno, come dire, meno associazionistico, nasce più nei laboratori delle singole aziende, e questo va bene, sembrava fosse un modello ormai vecchio, e invece evidentemente il DVD non ha insegnato alle industrie molto. In realtà sull'alta definizione abbiamo perso almeno 2 anni di mercato, questo sicuramente.